tante persone anche all'interno del quartiere hanno una serie di pregiudizi che a volte trovano poi dei riscontri, a volte invece si rimangono solo dei pregiudizi. E ci rendiamo conto che le associazioni fanno un lavoro importantissimo che non fanno in altre parti della città, ad esempio, lì c'è proprio una concentrazione di persone che, come va detto, si fanno il mazzo per riuscire a dare dignità a un luogo che appunto viene denigrato comunque nel resto della città. Perché solo col gioco di squadra si possono portare cambiamenti. Tante cose buone che vanno comunque valorizzate, poi secondo me ognuno di noi ci deve mettere la propria parte, no? Io faccio fatica a proiettarmi nel futuro e tutto sommato devo dire che per ora quello che vedo non mi dispiace, cioè nel senso che non vedo neanche cose così eclatanti da cambiare in questo posto, piuttosto da potenziare, da valorizzare, ma tutto sommato non vedo, avrei voglia di vedere molti co più cambiamenti in altri quartieri della città di Modena. Tanti saluti e un abbraccio a tutti.